Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17:07 minuti, buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Venerdì 2 novembre, di che cosa parleremo oggi? Come già vi accennava il giornale radio, non potremo non parlare delle vicende di Fiat. Naturalmente, con lo scontro ancora in atto sulla vicenda dei 19 operai da reintegrare e dei 19 che Marchionne ha detto di voler mettere in mobilità. Ieri ci sono state le dichiarazioni dei ministri, lo sapete, Fornero e Passera. Riascolteremo alcune di queste dichiarazioni. Oggi, tra l'altro, in Italia in Controluce, volendo tra l'altro potete riascoltarlo come sempre sul nostro sito, abbiamo trattato il tema e prenderemo delle voci anche da là. E vedremo di capire, di cercare di orientarci un attimo su dove possa andare ad approdare questo scontro che ovviamente, come sempre succede per Fiat, si sposta anche sul piano politico. Durissime oggi le dichiarazioni del leader del Partito Democratico, Pierluigi Bersani. Ci sono altri temi, anche in parte collegati, se volete, perché anche sulle vicende di Fiat, in particolare di Chrysler, in realtà si sta svolgendo una parte dello scontro tra Barack Obama e Mitt Romney in vista del voto per le presidenziali americane, che lo ricordiamo sarà martedì prossimo. In queste ultime battute di campagna elettorale si parla molto di questo, si parla molto di lavoro. Oggi ci sono i dati sull'occupazione americana, sono stati creati 171.000 posti di lavoro, un dato buono, migliore delle attese degli analisti, con il tasso di disoccupazione che sale al 7,9%, che non è necessariamente un dato negativo il fatto che risalga, perché vuol dire semplicemente che c'è più gente che cerca lavoro, cioè c'è una certa fiducia maggiore da questo lato. I mercati, a dire il vero, dopo una prima reazione positiva non stanno reagendo benissimo, perché il Dow Jones perde lo 0,34%, lo Standard & Poor's lo 0,18%, il Nasdaq lo 0,33%. E negativa è anche la borsa italiana, FTSE MIB che cede lo 0,3% e FTSE All Share lo 0,25%. Cosa non possiamo farci mancare nella giornata di oggi? Naturalmente la legge di stabilità, che è stata letteralmente ribaltata in questa settimana, almeno in quelle che erano le impostazioni iniziali, con un orientamento che sta andando un po' più verso un taglio del cuneo fiscale dello 0,5% quest'anno nel 2013 e dell'1% nel 2014, ha scritto il Sole 24 Ore oggi, ma ha scritto anche il collega Dino Pesore, che avremo più avanti nel corso della trasmissione. Insomma, per finanziare il nuovo che c'è nella manovra, visto che è saltato anche l'aumento dell'IVA dal 10 all'11% per una serie di beni, sono circa 2.000, ci vogliono 2 miliardi di euro. Come tirarli fuori? Il tema è sempre quello. Questo il quadro dei temi che affronteremo nella giornata, con ovviamente anche il punto sui mercati. Come sempre, le notizie in breve di oggi. Materie prime in apertura, come sempre, con l'oro in calo a $1,707,7 l'oncia. Per quanto riguarda invece il prezzo del petrolio, anche qua siamo in calo. Il WTI, quello quotato a New York, con consegna a dicembre dello 0,33%, $86,8 al barile. Il Brent, quello quotato a Londra, in lieve rialzo dello 0,36%, a $108 al barile. E a proposito di energie, di gruppi energetici, c'è Gazprom che ha chiuso i conti del secondo trimestre con un utile in calo del 50% a $4,8 miliardi, risultato che pesa sui conti semestrali, con l'utile netto della prima metà dell'anno in calo a $16,7 miliardi. I dati americani, come si diceva. L'economia americana ha creato in ottobre 171.000 posti di lavoro, il tasso di disoccupazione sale al 7,9%, le attese degli analisti erano per 125.000 posti di lavoro. È interessante anche la revisione al rialzo di settembre, quando l'economia ha creato 148.000 posti, più dei 114.000 precedentemente stimati. Tra l'altro è un incremento dovuto, quello di ottobre, essenzialmente al settore privato, e anche questo è un elemento importante. 184.000 posti di lavoro, la cifra più elevata da febbraio. Dice Barack Obama che sono progressi reali per l'economia americana. Segnali positivi dall'Europa e dall'Italia in particolare. Continua a scendere lo spread, la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi a 10 anni. Siamo a 349 punti base, anche se si è segnalata in giornata qualche timore per l'asta di titoli di Stato spagnoli a venire. Anche se i dati economici non sono positivi, perché l'indice PMI manifatturiero europeo è calato a 45,4 punti in ottobre e la Banca Centrale Europea segnala un peggioramento dell'accesso al credito per le piccole e medie imprese dell'Eurozona, un ulteriore peggioramento dell'accesso al credito, come se non bastasse quello che abbiamo subito finora. Nel periodo compreso tra aprile e settembre 2012, la disponibilità di finanziamento esterno fa segnare una flessione del 22% contro il meno 20% del periodo precedente. E aumentano i casi di rifiuto delle richieste di prestiti bancari, con un rialzo al 15% dal 13% precedente. Quindi chiariamo bene, questo vuol dire che non è solamente che le imprese non vanno a chiedere alle banche, sono anche le banche che rifiutano. Anche per, insomma, tirar via qualche luogo comune. Nel terzo trimestre, a proposito di banche, Royal Bank of Scotland ha fatto segnare perdite per 1,38 miliardi di sterline, 1,72 miliardi di euro circa. Royal Bank of Scotland, lo ricordiamo, è controllata a maggioranza dallo Stato britannico. Le perdite dell'istituto nei primi 9 mesi sono a 3,4 miliardi di sterline. Infine, due notizie, una che riguarda l'industria italiana. È stata spenta con un giorno di anticipo all'alba l'ultima cella dello stabilimento Alcoa di Porto Vesme. La fermata è avvenuta alle 6.30 con lo spegnimento della cella numero 1124. Da questa mattina la fabbrica è ferma. E poi ci sono le parole del presidente del Consiglio, Mario Monti. In un'intervista al quotidiano francese Les Echos, la pozione è amara, ma è per il bene del paese, dice Monti, che aggiunge le riforme strutturali devono continuare. E siamo al primo argomento di questa giornata, ossia Fiat. E come sappiamo scalda sempre gli animi, iniziano già a arrivare al 349-238-6666 messaggi. Quella di Marchionne è una ritorsione giustificata contro la Fiom, ci scrivete. Ne aspettiamo altri, sappiamo che l'uomo Marchionne e la vicenda Fiat appunto scaldano gli animi. Saluto Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Alberto, buonasera. Buonasera a voi. Allora, che cosa è successo oggi? È la notizia che sta dominando per il momento la giornata. È successo che è arrivato un comunicato della Fiat in due versioni. Una prima versione che era una bozza, così definita, partita per sbaglio dai computer e che era

non di fronte alla minaccia padronale o chissà di chi altri. Quindi è stato un consenso libero, e se effettivamente le relazioni industriali sono basate su liberi intendimenti delle parti sociali e dei lavoratori su base democratica, quello era un accordo perfetto. E aveva portato a uno sviluppo produttivo dell'impianto che tra l'altro ha fissato nuovi paletti di produttività, sono quelli in base ai quali Marchionne oggi può dire che fa funzionare di nuovo gli stabilimenti. Quindi siamo di fronte a una serie di contraddizioni, a un coacervo, un gomitolo molto complesso che va dipanato, ma per dipanarlo è il momento del dialogo, della discussione franca, senza pregiudizi, che veda in campo tutte le parti, anche perché, ultima osservazione poi mi taccio, è chiaro che adesso gli altri sindacati sono pronti a correre in soccorso ai 19 ulteriori licenziati che faranno lo spazio ai delegati FIOM, è evidente. Quindi si apre una fase di Vietnam giudiziario che non fa bene all'azienda, non fa bene al paese e non fa bene ai lavoratori. Alberto, secondo te, hai parlato di dialogo, la strategia effettiva per uscirne? Perché l'impressione è che ormai gli spazi per il dialogo siano estremamente ridotti, nel senso che al di là, come dire, di un eventuale messaggio di apertura che può arrivare dall'azienda o dal sindacato, insomma, il clima di sospetto che si è generato tra la FIOM e Marchionne, in particolare tra la FIOM e Marchionne, sia difficile da sciogliere, ecco. Sì, è esattamente un problema di feeling, diciamo così, ma di mancato feeling evidentemente, e di pregiudizio politico, se così vogliamo dire. Ma già il fatto che ci siano stati due comunicati, leggiamolo come un fatto positivo, nel senso che è una scelta dell'azienda di non esacerbare la discussione e la polemica politica. I margini ce ne sono, perché per esempio ci sarebbe stato un margine diverso nell'improntare la strategia processuale. Invece di scegliere di prendere la sentenza così com'è e di applicarla in modo che la responsabilità della sostituzione del personale finisca in capo alla FIOM, l'azienda avrebbe potuto fare un ulteriore ricorso al giudice dell'esecuzione e chiedere al giudice, al magistrato, i criteri in base ai quali selezionare le persone da sostituire. Questo chiaramente avrebbe consentito all'azienda e alle parti di prendere tempo e avrebbe rimesso in capo alla magistratura l'onere, diciamo così, politico di sbrigare la matassa, visto che avevano creato l'incidente con la sentenza, per così dire incidente. Non è stata scelta questa strategia, evidentemente, perché si è voluto, come dire, punire o responsabilizzare in negativo la FIOM direttamente. Adesso io credo che questa fase di questo obbligo di reintegro, che tra l'altro riguarda i 19 ricorrenti, ma è estendibile a 145 unità nel giro di 6 mesi, dovrà essere gestito di nuovo da un accordo con tutte le parti sociali, perché è evidente che la FIOM ha chiesto più volte di distribuire l'onere ulteriore dei lavoratori nuovi su tutti gli altri con una specie di contratto di solidarietà, cioè abbassamento del costo del lavoro unitario, quindi una rinuncia di una parte della retribuzione da parte di tutti per inglobare i nuovi assunti. Se questa strategia di reimpiego finisce all'interno della strategia che già era stata impostata di reintroduzione del personale nella Nuco di Pomigliano, probabilmente i margini per gestirla sindacalmente in modo positivo per tutti ci sono. È chiaro che però ci vogliono, così come è venuta oggi da parte della Fiat, una volontà con il secondo comunicato di non esacerbare gli animi, dall'altra ci vuole una FIOM che però non persegua sempre lancia in resta la strategia del Vietnam giudiziario, perché altrimenti non si va da nessuna parte. C'è un pezzo del paese che di questa vicenda, Alberto, sta facendo una sorta di bandiera. Io vedo dagli sms che ci stanno arrivando, no? Anche una certa concordia con la seconda parte della frase di Passera, che dice, insomma, libera impresa in libero stato. Devo poter assumere chi mi pare e quando mi pare, insomma. Non c'è dubbio, è verissimo. Questo è un principio sacrosanto che probabilmente nella nostra dinamica delle forze in campo, nell'equilibrio tra capitale e lavoro, si è un po' perso, nel senso che da noi si è molto più insistito, vedi lo statuto dei lavoratori che non ha ancora come contropartita uno statuto dell'impresa, perché ancora non c'è, e ha creato effettivamente uno squilibrio ideologico, ma nei fatti però è chiaro che la forza anche in termini contrattuali di un'impresa è sempre maggiore rispetto a quella di un singolo lavoratore o di piccoli gruppi di lavoratori, come è evidente. È chiaro che ogni volta che si parla delle vicende della Fiat però c'è, come dire, un plus di simbolo nazionale che un po' condiziona poi la gestione. Ecco, scusami Alberto, ti interrompo, tutto quello che accade. Ti interrompo solo per questo, perché poi in realtà su singole aziende la FIOM va a firmare anche accordi anche più avanzati di quelli di Pomigliano, insomma, dal punto di vista anche della produttività, se vogliamo, e anche della turnazione, insomma. Sì, certo, ce ne sono stati diversi effettivamente nel territorio, evidentemente ha funzionato meglio il meccanismo delle relazioni industriali, il meccanismo fiduciario, perché poi è solo un problema di fiducia e di buona fede tra le persone. Qui diciamo così c'è stata una distorsione, per così dire, culturale, indotta da un atteggiamento del vertice dell'azienda fin dall'inizio, che pretendeva in tempi molto rapidi un cambio di cultura nelle relazioni industriali, diciamo un modello un po' più deregolato, un po' più semplificato, un po' nello stile americano, se così vogliamo dire, che potrebbe anche essere giusto. Il problema probabilmente è che rispetto al costume, agli usi del nostro paese, che faticosamente è arrivato a una serie di regole, di equilibri, era un cammino, una derapata, diciamo così, una conversione a U un po' troppo brusca che rischiava di far uscire i passeggeri dall'auto effettivamente. E questo è stato il vizio originario, cioè che ha portato per esempio la Fiat a uscire con grande, sbattendo la porta dalla Confindustria, pretendendo un accordo di settore che ancora non è arrivato, pretendendo appunto una muscolarità nella gestione dei rapporti sindacali all'interno delle NewCo, che un po' ha portato risultati e un po' no. Soprattutto l'idea della box, per così dire, al posto delle relazioni industriali, come dire, conciliative o di inclusive, per così dire, paga magari sul breve periodo, ma sul lungo poi crea sempre un terreno minato, come sta avvenendo ora. Detto questo, io mi auguro che le parti rinsaviscano e trovino una soluzione negoziale per gestire questa nuova fase, che indubbiamente è stata creata dall'incursione della magistratura, diciamo così, chiamata dal sindacato, che era più che legittimo, per carità, che però ha squilibrato effettivamente il delicato castello di relazioni industriali che era stato creato. Bisogna trovare un equilibrio effettivamente anche tra il legittimo potere della magistratura e il rispetto per quello che le parti sociali a maggioranza su basi assolutamente democratiche scelgono. Questo è uno dei nodi più delicati forse della nostra gestione dei delicati rapporti fra capitale e lavoro, che ancora non ha trovato un punto di equilibrio definitivo, anche se è stato molto importante l'accordo del giugno scorso, che ha creato la derogabilità anche dei contratti nazionali all'interno di un quadro naturalmente negoziato, che già sta dando qualche frutto positivo nell'applicazione sull'economia reale. Quindi ci sono chiari scuri, come sempre nel delicato mondo delle relazioni industriali. A proposito di relazioni industriali, così qua chiudiamo, visto che abbiamo il piacere di averti qua, tu portavi come esempio giustamente come sta procedendo la trattativa sulla produttività tra parti datoriali e organizzazioni dei lavoratori. Ecco, quello mi sembra oggettivamente un bel segnale, insomma, là si sta andando con qualche salto, naturalmente, come ovvio che sia, però si sta procedendo abbastanza serenamente. Beh, esatto. Anche perché ci sono le risorse sul piatto, forse già esattamente, pronte. Esattamente, non è poco una dote biennale di 1,6 miliardi di euro da destinare al salario di produttività, che non dimentichiamo diventa incremento delle buste paga reali dei lavoratori a fronte di un aumento della flessibilità e di maggiori prestazioni che chiede l'azienda. Chiaramente un obiettivo strategico molto importante, perché è la prima volta dopo tanto tempo che si redistribuiscono risorse, si riesce a creare una torta più grande per cui, all'interno della quale è possibile trovare un'altra fetta da redistribuire tra le parti, mentre per molto tempo siamo stati, diciamo così, a gestire una fase recessiva senza, che era più di tagli che non di incrementi, e quindi questo è fondamentale per il paese, per la domanda interna, per il recupero dei consumi, per il rilancio anche del PIL e dell'economia, e per uscire dal tunnel recessivo. Mi sembra che la cosa importante al tavolo di quel negoziato è che non ci sono parti che hanno pregiudiziali ideologiche o hanno, come dire, posizioni precostituite. C'è una grande serenità tecnica, diciamo così, nel gestire al meglio un negoziato che tutti sanno è molto importante anche per uscire dall'idea declinista, un po' depressiva del nostro paese. Sarà un segnale molto importante quello che verrà dato dalle parti sociali su questo tema. Per ora ci sono ancora delle sfasature tra le parti datoriali nel definire quale sia il contratto di secondo livello su cui far intervenire questi bonus, però sono sicuramente recuperabili. E un ulteriore segnale positivo che va in questa direzione è la scelta nella legge di stabilità di spostare le risorse sull'abbattimento del cuneo fiscale, che è all'interno di questo grande tema. Probabilmente un intero paese che riesce a orientare tutte le sue energie psicologiche e reali e sociali su un obiettivo importante, che è quello dell'abbattimento del cuneo e del far crescere i salari reali, è una cosa che ha un grandissimo valore strategico. Grazie ad Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, anche per quest'ultima riflessione che ci ha riportato anche ai temi un po' più generali, oltre a quelli di Fiat, sui quali naturalmente torneremo più avanti. Grazie Alberto, buonasera. Grazie a voi, buon pomeriggio. I saw a story today that one of the great manufacturers in this state, Jeep, now owned by the Italians, is thinking of moving all production to China. False, what he just said there. Chrysler, which was bought by Fiat, said it's not taking any jobs from Ohio. Who will do more for the auto industry? Not Barack Obama. Fact checkers confirm his attacks on Mitt Romney are false. The truth? Mitt Romney has a plan to help the auto industry. Allora, abbiamo parlato di Fiat e avete sentito i due audio che avete sentito di sottofondo, sono uno di uno spot firmato da Barack Obama, quello insomma nel quale prende appunto Marchionne ad esempio, insomma. È stato un tema costante della campagna elettorale americana il salvataggio dell'industria automobilistica americana, e poi lo spot di Romney che dice chi fa di più per l'industria dell'auto, non Barack Obama. Lo scontro tra l'altro si è riprodotto anche oggi con Romney che dice Jeep vuole spostare, quindi siamo sempre nell'ambito del gruppo Chrysler e quindi del gruppo Fiat, Jeep vuole spostare la produzione dall'Ohio in Cina. Obama che gli risponde è falso. Dunque, avete capito di cosa stiamo per parlare? Di Stati Uniti. Non prima di dire naturalmente che, come al solito, in particolare per questa vicenda, devo dire la verità, vi siete divisi scrivendo al 349-238-6666 a proposito appunto della vicenda di Fiat. C'è chi ci scrive a proposito dei magistrati, insomma, che questo reintegro non ci doveva essere, insomma, non sono i magistrati a dover decidere chi reintegrare. Chi invece se la prende duramente con Marchionne, c'è chi dice che alternative avevano quelli che hanno votato liberamente nel referendum per Pomigliano, la famosa questione, la scelta appunto, che cosa vuoi votare se nel caso non voti per quell'opzione ti tolgono il lavoro. Chi dice ancora la Fiat è già nazionalizzata? Quindi, divisi da questo lato, c'è un tema collegato a questo che è la questione dell'occupazione negli Stati Uniti. L'economia americana ha creato in ottobre 171.000 posti di lavoro, il tasso di disoccupazione sale comunque al 7,9%, ma insomma c'è anche un aumento della partecipazione al mercato del lavoro. Interessante il dato sul settore privato, che ha creato in ottobre 184.000 posti di lavoro, la cifra più elevata da febbraio. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, buonasera. Buonasera. Mario Platero, che stiamo ritrovando spesso in questi giorni, come è ovvio che sia, insomma, visto che siamo ad un passo dal voto. C'è chi ha detto che questo dato sull'occupazione, insomma, sarebbe stato il momento decisivo, insomma, un pezzo il momento decisivo di questa fase finale di campagna elettorale. In realtà è un po' più in chiaroscuro di quanto forse Obama non sperasse, Mario. Ma guarda, devo dirti, il dato importante è l'aumento netto di 171.000 salariati, nuovi salariati dipendenti. ci si aspettava un aumento di 125.000, quindi sono state battute le aspettative, quindi il dato è positivo, significa che l'America assume. C'è stato, è vero, un aumento del tasso di disoccupazione, sono due misure diverse, il tasso di disoccupazione misura lo stock di disoccupati, mentre invece l'altra cifra riguarda il movimento, diciamo il flusso di nuovi occupati dal punto di vista mensile. E quest'ultimo dato è quello più importante, perché ti dà un'idea in prospettiva di come le aziende si stanno posizionando. Quindi direi è un dato buono, perché tra l'altro è anche uno dei dati più elevati degli ultimi mesi, questo 171.000, cioè per parecchio tempo non si era avuto un dato così forte, eravamo andati a più 50.000, più 40.000, più 80.000, quindi questo dato aiuta, diciamo, al netto Barack Obama. Ma come tu hai osservato prima, ricordando la polemica sulla Fiat, ricordando, scusa, non so se mi sentite ancora. Sì, ti sentiamo perfettamente, Mario. Ecco. Allora, c'è stato quest'altro, diciamo, quest'altro elemento importante che ha riguardato la critica sulla Amazon. E invece adesso, Mario, ti stiamo perdendo. Ci sei? Evidentemente è caduta la linea con Mario Platero. Io intanto, insomma, posso dare qualche dichiarazione di Barack Obama, come si diceva, proprio a proposito dei dati di oggi. Dice: l'economia americana sta facendo progressi reali. Ad ottobre nel settore privato ci sono state più assunzioni che negli ultimi 8 mesi, quindi anche questo il dato che abbiamo sottolineato. La replica di Mitt Romney: il presidente Obama non ha mai capito come si creano posti di lavoro. Con Obama gli Stati Uniti potrebbero andare incontro ad un'altra recessione. E ancora, io, dice Romney, dal primo giorno in cui sarò presidente aiuterò gli americani a tornare al lavoro. Obama si è più concentrato sull'Obamacare che sulla creazione di posti di lavoro, insiste dunque il candidato repubblicano. Gli elettori indecisi dovrebbero guardare di più ai risultati ottenuti negli anni dai candidati per scegliere. Insiste Romney, ora siamo impantanati, come ci sarà la ripresa economica? Queste le dichiarazioni del presidente e dello sfidante. Noi invece abbiamo recuperato Mario Platero, appunto, che ci stava segnalando qual è l'elemento più importante di questi dati che abbiamo visto oggi, anche stiamo mettendo dentro anche la vicenda di Fiat, o meglio di Chrysler. Mario. Scusate, si è caduta la linea. No, dicevo, c'è un cocktail che alla fine ruota intorno all'economia, tutti gli ingredienti sull'economia dal punto di vista della formazione di occupazione, in questo caso è un dato favorevole a Barack Obama, l'aspetto del settore manifatturiero, di cui la Chrysler era diventato un po' il simbolo, che Barack Obama è riuscito a girare a suo favore, perché obiettivamente Mitt Romney ha fatto una gaffe dicendo quello che ha detto, perché ha detto delle cose molto inesatte e le ha sfruttate politicamente, cosa che poi agli americani non piace molto. C'è una forte polemica sul fiscal cliff, su questa scadenza fiscale, con la paura, il timore che poi intervengono dei meccanismi automatici per cercare di riparare quelli che sono stati i danni dal punto di vista del disavanzo pubblico e dell'aumento del debito. Ci sono polemiche sul fronte della regolamentazione finanziaria, dalle banche ai mutui, quindi l'economia nel suo insieme continua a dominare, con una caratteristica e una domanda di fondo: è un'economia che si sta riprendendo o no? Oggi Barack Obama ha approfittato di questo dato per rispondere a Mitt Romney su ogni fronte. L'economia si sta riprendendo, sta andando molto meglio, quello che io vi ho detto nelle ultime settimane, cioè che ci vorrà tempo e pazienza, corrisponde al vero, e una fabbrica come la Chrysler non sposterà la sua produzione americana in Cina, ma la terrà negli Stati Uniti d'America. Per quel che riguarda l'America, può essere che investa in Cina se decide di fare delle nuove produzioni locali. Quindi l'economia domina, ma alla fine di una settimana piuttosto turbolenta e a pochi giorni ormai dalle elezioni, devo dire, si chiude un periodo che è stato più a favore di Obama che di Mitt Romney, questa almeno è la sensazione. Ci sembra chiarissimo, Mario, e grazie a Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, che poi naturalmente torneremo a trovare in tutti, in quasi tutti i nostri appuntamenti dedicati alle elezioni americane. Vi ricordo tra l'altro che vi dedicheremo un lungo speciale in onda dalle 22 alle 6 del mattino nella notte elettorale, poi proseguiremo anche nel corso della giornata con 24 mattino, quindi per tutti gli aggiornamenti. Ci scrivete: ma la Federal Reserve per chi tifa, se per Obama o Romney? Beh, insomma, la Federal Reserve teoricamente non tifa per nessuno, ossia la banca centrale americana. Probabilmente il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, tifa per Obama per il semplice fatto che Romney ha detto abbastanza esplicitamente che ha intenzione di sostituirlo. Ci chiedete, visto che insomma siamo ancora sul tema di Fiat come tema centrale di giornata, l'abbiamo parlato ampiamente nella prima parte della trasmissione, ci chiedete se Marchionne potrebbe comportarsi così in Germania. Probabilmente potrebbe. La realtà è che in Germania c'è un sistema di relazioni industriali complessivo che riguarda sia le aziende sia le organizzazioni sindacali, che è completamente diverso, compreso il famoso tema del quale tante volte abbiamo parlato, del quale tante volte abbiamo raccontato, di partecipazione dei lavoratori direttamente nel capitale delle imprese, non solo, ma appunto è il sistema delle relazioni industriali che è diverso, evidentemente meno conflittuale, e questo anche in forza di riforme del mercato del lavoro varate quando era cancelliere Gerhard Schröder, che stanno dispiegando i loro effetti esattamente in questa fase storica. È il momento delle borse. Livia Zancaner, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, avevamo sperato che la giornata virasse in positivo, il dato americano aveva confortato proprio la borsa americana naturalmente, prima di tutto, con il Dow Jones che era arrivato a guadagnare, se non erro, un mezzo punto percentuale o qualcosa di più addirittura. In realtà la borsa americana è in negativo e chiude in negativo Piazza Affari, tra l'altro unica in Europa o sbaglio? Sì, allora, Parigi e Francoforte hanno chiuso in territorio positivo, Londra leggermente sotto la parità, comunque un meno 0,06%, la Spagna positiva, quindi sì, sostanzialmente Milano è stata l'unica piazza positiva. Ricordiamo però che nelle ultime tre negativa, sedute sì. È negativa, sì. Sì, scusami. Ricordiamo però che nelle ultime tre sedute il FTSE MIB è stato quello che ha guadagnato di più, ha realizzato, c'era un rialzo dello 2,9% e realizzando la migliore performance in Europa, quindi oggi probabilmente gli investitori ne hanno approfittato per prendere profitto anche a seguito dell'andamento negativo delle banche, che appunto a Milano hanno chiuso sotto la parità, ad eccezione fatta per MPS e Mediobanca. Ecco, proprio a proposito di questo, io partirei da MPS, in realtà è più un rimbalzo che altro, mi sembra di capire. Sì, più 3,67% oggi. Sì, MPS. Per MPS si tratta sostanzialmente di un rimbalzo, nel senso che il titolo ha perso il 13,8% dall'ultimo picco segnato 17 ottobre. A ieri è andata bene anche Mediobanca, che ha guadagnato il 2,55%. Ricordiamo che in questi giorni va a tenere banco sono delle voci in discrezioni stampa relative a un possibile risico nel settore bancario in Italia, in particolare si parla di una fusione tra Unicredit e Intesa San Paolo. Inoltre il prossimo 13 novembre pubblicheranno i conti una serie di banche, ovvero BPM, MPS, Banco Popolare Unicredit, UBI, Intesa San Paolo, quindi vi è molta attesa per i conti, proprio in vista dei conti. Sono arrivato oggi il giudizio negativo di Deutsche Bank, secondo cui i risultati delle banche evidenzieranno ricavi deboli e accantonamento per perdite su crediti. Ricordiamo anche che oggi RBS, la banca britannica, ha comunicato i conti, ha chiuso il terzo trimestre con una perdita molto, molto rilevante ed il titolo ha perso terreno in borsa, facendo chiudere quindi la borsa di Londra poco sotto la parità. E questa mi sembra già una risposta all'ascoltatore che ci scrive: ma perché le banche non partono mai, quanto bisognerà aspettare ancora? Insomma, lo studio di Deutsche del quale ci hai parlato adesso. Bene, Mediobanca, 2,5%, si diceva. Autogrill più 2,06. Sì, allora Autogrill appunto ha guadagnato oltre il 2%, qui vi è una promozione da parte di alcuni analisti della banca d'affari Credit Suisse che consigliano di comprare il titolo. Secondo gli analisti, Autogrill farà meglio del mercato, e sempre secondo gli analisti del Credit Suisse il titolo vale 9,1 euro, rispetto alla chiusura di stasera a 8,19 euro, quindi secondo la banca d'affari ci sono margini per una crescita delle azioni Autogrill. Bene, anche Mediolanum che guadagna l'1,86%, Atlantia più 1,47%, A2A più 1,31%, io però ti porterei sui titoli negativi, in negativo. Tanto abbiamo parlato di Fiat oggi e il titolo peggiore è Fiat Industrial, meno 2,21%. Sì, ricordiamo che il titolo Fiat Industrial, come altri, aveva guadagnato molto, ha guadagnato oltre il 5% nelle ultime tre sedute grazie alla diffusione di una trimestrale che è piaciuta, che è stata apprezzata dal mercato, quindi oggi si tratterebbe sostanzialmente di realizzi, di vendite innescate però da un giudizio negativo degli analisti di UBS che non consigliano più sostanzialmente l'acquisto del titolo, ma hanno una raccomandazione neutrale sulle azioni con un prezzo obiettivo in linea più o meno a quello di mercato, cioè 8,5 euro rispetto ad una chiusura di 8,19, quindi sostanzialmente in linea, e gli investitori appunto ne hanno approfittato anche in questo caso per monetizzare sostanzialmente i guadagni realizzati nei giorni scorsi. Telecom Italia giù del 2,04%, ci sono questioni di settore e questioni aziendali, no? Sì, assolutamente sì, è andato male oggi tutto il comparto telefonico, in particolare Deutsche Telekom ha perso oltre il 4% a Francoforte. In discrezione stampa hanno parlato di un taglio del dividendo 2013 addirittura del 30%, quindi il comparto è stato penalizzato da questa notizia. Ricordiamo, per quanto riguarda Telecom, che la società comunicherà i dati venerdì prossimo e sostanzialmente gli analisti si aspettano comunque una conferma dei target 2012 da parte della società italiana, anche se i conti del terzo trimestre mostreranno dei ricavi in calo. Questo per quanto riguarda Telecom Italia. Altre notizie di giornata, o meglio, più che notizie, Mediaset, che in realtà aveva la seduta era stata negativa, come molte sedute da un po' di tempo a questa parte per Mediaset. Pesano naturalmente i timori, che insomma più che timori sono quasi certezze, sull'andamento del mercato pubblicitario nei prossimi mesi, ai noi intendo tutti, insomma tutta l'editoria, più 0,22% alla fine. Sì, alla fine ha chiuso sopra la parità la seduta, però era stata sostanzialmente vissuta in territorio negativo. Ricordiamo che sono uscite in discrezioni stampa relativa a un possibile scorporo per Mediaset di reti televisive italiane in una NewCo, quindi una nuova società, e un possibile aumento di capitale finalizzato a ridurre il debito. Le indiscrezioni sono state smentite in maniera categorica da Mediaset. Ricordiamo anche che quando si parla di aumento di capitale i titoli tendono a scendere in borsa, si tratta di un effetto immediato, ma le notizia che però in questo caso è stata smentita. Altre notizie invece interessanti per l'Italia, per le aziende italiane, riguardano Luxottica. Sì, Luxottica Luxottica ha chiuso in lieve rialzo dello 0,37%. Qui vi è una notizia, appunto una notizia positiva, come dicevi tu. Questa mattina la società ha comunicato di aver stretto un accordo in esclusiva per acquisire la società francese Alain Miquelet, che ricordiamo opera nel settore dell'occhialeria di lusso e di tendenza. Al momento si tratta di un accordo in esclusiva, non è stato ancora indicato il prezzo, ma alcuni analisti iniziano a ipotizzare una possibile valorizzazione intorno a 150 milioni di euro. Ricordiamo che la società francese ha un fatturato di 60 milioni di euro circa. Segnalazioni altre sui titoli minori, Livia? Sui titoli minori c'è un titolo che sta guadagnando molto, ha guadagnato terreno anche oggi, e il titolo Sintesi, che appunto oggi ha guadagnato quasi il 30%. Ricordiamo che è in corso un aumento di capitale da circa 5 milioni di euro, che si chiuderà il 13 novembre, ma ricordiamo anche che si tratta di titoli più piccoli, quindi bastano pochi movimenti per far salire o scendere il titolo. Naturalmente, grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Corriere del Sole 24 Ore, grazie a Livia Zancaner. Buonasera Livia. Noi ci chiedete degli Stati Uniti, abbiamo dato l'andamento della borsa americana in questo momento, l'abbiamo dato poco fa, insomma, però in questo momento il Dow Jones cede lo 0,27%, il Nasdaq altrettanto, lo Standard & Poor's 500 lo 0,14%, quindi non grandissimi movimenti. Per quanto riguarda la quotazione dell'euro, anche questo giustamente ci chiedete, a 1,28,42 contro dollaro. Infine, come sempre, l'aggiornamento sullo spread, la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi a 10 anni a 349 punti, e il rendimento dei decennali italiani sotto il 5%, appena sotto il 5%. Ancora su Fiat, al 349-238-6666 ci scrivete, e vogliamo segnalare che quando arrivano 7-8 messaggi dalla stessa persona in fila, guardate che ce ne accorgiamo, insomma, quindi è inutile insistere. Mentre invece vogliamo ringraziare Sergio, Milena, Andrea e Giulia, che ci mandano un bel sms di complimenti molto lungo, definendosi i focussiani precari. Grazie. Noi adesso ci occupiamo finalmente della legge di stabilità. Allora, che cosa succede al lato della legge di stabilità? Ci sono 1600 emendamenti, 1600. Oddio, succede sempre. Ve lo ricorderete con la finanziaria, questa è la legge che la sostituisce, la legge di stabilità, e quindi, così come per la finanziaria, arrivano molti emendamenti che sono le proposte di modifica da parte del Parlamento. 890 sono firmati dalla cosiddetta strana maggioranza di Mario Monti. E c'è comunque un dialogo, una dialettica, così vogliamo chiamarla, tra governo e Parlamento sui temi della legge di stabilità. Molta attenzione si sta concentrando sulla riduzione del cuneo fiscale. Insomma, pare che sia saltato il rialzo dell'IVA dal 10% all'11%. Viene mantenuto il rialzo dell'IVA dal 21% al 22%. Tenete presente che nella categoria del 10% di IVA ricadono moltissimi prodotti, sono oltre 2000, tra gli altri alcuni prodotti alimentari come la carne, lo yogurt, il riso, tanto per fare qualche esempio. Detto ciò, al momento i conti non tornano, ne parleremo anche più avanti insieme a Dino Pesole, che di questi temi si occupa da anni e che oggi sul Sole 24 Ore ha provato a fare un po' di conti su quanto costa la riduzione del cuneo fiscale, come si ipotizza, dello 0,5% nel 2013 e di un punto percentuale nel 2014. C'è chi però ha avuto un'idea per ridurre il cuneo fiscale, ossia banalmente la differenza tra quanto spende il datore di lavoro e quanto incassate voi in busta paga, senza che lo Stato debba cacciare soldi. Ne ha scritto sul Sole 24 Ore del 31 ottobre scorso. Si tratta di Marco Cattaneo, presidente di CPI Private Equity, insomma un operatore del private equity. Cattaneo è con noi, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, certificati di credito fiscale per alleggerire appunto il cuneo fiscale. Certificati di credito fiscale. Lei, Cattaneo, adesso deve essere semplice in una maniera esagerata. Ci spieghi che cosa intende. Allora, si tratta semplicemente di certificati che danno diritto e che sono utilizzabili per pagare tasse o imposte o obbligazioni verso lo Stato di qualsiasi tipo in un futuro prossimo. Nella mia proposta, per esempio, fra 2 anni. Ma mi spieghi, tecnicamente sono debiti verso lo Stato, in pratica? Tecnicamente la possiamo considerare una forma di equivalente monetario. Mettiamola così, per finanziare una forte riduzione del cuneo, ma non dello 0,5, dell'1%, qualcosa tipo 15-20%, 16% è la mia proposta, se l'Italia fosse uno Stato che ha ancora la possibilità di emettere la sua moneta, potrebbe semplicemente stamparla sostanzialmente. Questo non è più possibile perché oggi siamo in regime euro. La mia proposta sostanzialmente supera questo problema, mettendo in mano sia al datore di lavoro da una parte, sia al dipendente dall'altra, dei diritti che sono utilizzabili in futuro per soddisfare obbligazioni d'imposta, che è esattamente la funzione che svolge la moneta sostanzialmente in uno Stato che dispone della propria moneta. Questo risolve sostanzialmente il problema del disallineamento e competitività tra i paesi del nord Europa, in particolare la Germania e l'Italia, che è la vera origine di tutti i problemi dell'area euro. E di fatto sarebbe come una seconda valuta, dice lei. Sotto certi aspetti sì, però non è una valuta che è destinata a circolare. Le banconote in circolazione saranno sempre euro, non stiamo parlando di qualcosa che modifica il sistema monetario, stiamo parlando di un intervento che lascia l'euro esattamente la forma in cui è, nessun break up, ma ripristina le condizioni di competitività tra i vari paesi. Allora, guardi, la porto sull'esempio pratico, così cerchiamo di chiarire anche con gli ascoltatori e di rendere la cosa il più semplice possibile. Certamente. Mettiamo che io abbia un'azienda, debba pagare 30.000 euro il mio lavoratore, all'ordo, il lavoratore che ho sotto di me, 30.000 euro. Che cosa faccio per fargli arrivare più soldi in busta paga e per spendere di meno io in tasse? Allora, lei azienda continua a pagare esattamente lo stesso importo netto, le stesse tasse e gli stessi contributi che paga oggi e il lavoratore si ritrova lo stesso ammontare di euro di prima. Lo Stato però a questo punto interviene integrando al dipendente un certo valore corrispondente a un 8% della sua retribuzione netta all'incirca nella mia proposta, sotto forma di questi certificati. L'azienda a sua volta ottiene un recupero sul suo Mi scusi, la fermo subito. E nel momento nel quale il dipendente ha in mano questi certificati, cosa ci fa? Nel momento in cui ha in mano questi certificati sono un diritto che potrà essere utilizzato in futuro. Siccome l'intervento ha un importo complessivo molto rilevante, circa 150 miliardi di euro, si creerà un mercato tale per cui questi certificati saranno negoziabili, per cui il dipendente li può trattenere e utilizzarli in futuro, oppure può monetizzarli sostanzialmente scontandoli presso il sistema bancario, come farebbe se fosse un bot di fatto, perché nella sostanza sono buoni al tesoro, sono zero coupon a 2 anni di scadenza. Quindi potranno essere monetizzati anticipatamente con un certo tasso di sconto, che può essere un 5, un 7, un 10% in funzione dei tassi di interesse attuali su un orizzonte di 2 anni. Quindi parliamo di un valore che dà più potere d'acquisto al dipendente e nello stesso tempo riduce i costi per l'azienda. Ma non è, e ce lo chiede anche un ascoltatore al 349-238-6666, non equivale all'emissione di altro debito pubblico? Equivale a uno sgravio fiscale a termine, se vogliamo. Oggi non è debito, perché lo Stato non ha nessuna riduzione delle sue entrate fiscali, non ha nessun peggioramento del suo deficit. In futuro ridurrà le entrate fiscali dello Stato, ma non oggi, fra 2 anni. Nello stesso tempo, fin da oggi, il sistema economico riceve un'iniezione di potere d'acquisto e di miglioramento di competitività di 150 miliardi, che vuol dire sostanzialmente una grossa spinta alla ripresa economica. Adesso chiaramente questo non è per entrare nei dettagli numerici, ma sostanzialmente il maggior livello di PIL, di produzione e di redditi, ripaga a termine la redenzione di questi certificati. Ovviamente si ripagano da soli. Abbiamo lungamente parlato di auto in apertura di trasmissione, vi do un aggiornamento perché sono stati diffusi i dati sul mercato dell'auto in ottobre in Italia. Le nuove immatricolazioni sono scese del 12,39% rispetto ad un anno fa. A settembre il calo era stato del 25,7%. Le immatricolazioni di Fiat Group sono scese del 10,32%, a settembre era stato il 24,2%, a ottobre la quota di mercato si è attestata al 29,1% contro il 28,4% di un anno fa, ma con un mercato, come avete appunto sentito, assai più rarefatto. Stavamo parlando con Marco Cattaneo dei certificati di credito fiscale per alleggerire il cuneo fiscale. Ci chiede un ascoltatore, ma tra 2 anni chi paga? Tra 2 anni semplicemente questi certificati saranno utilizzabili per soddisfare obbligazioni di imposta. Quindi non è che debba pagare qualcuno, a parità di condizioni lo Stato avrà meno entrate fiscali. Ma grazie all'azione di spinta del potere d'acquisto e di miglioramento della competitività il PIL sarà salito rispetto alle previsioni attuali. Di conseguenza ci saranno maggiori entrate fiscali dovute a maggiori livelli di attività che compenseranno l'effetto del CCF, del fatto che vengono utilizzati per pagare imposte. Questo è sperabile, nel senso che è un'idea che si basa su aspettative, insomma, bisogna vedere se queste aspettative poi si realizzano, insomma. Beh, come qualsiasi proposta, naturalmente nessuno ha la sfera di cristallo. La cosa certa e che gli interventi effettuati sono andati nel senso di una maggiore fiscalità e hanno provocato una forte contrazione dell'attività economica del PIL. Interventi che invece migliorano e riducono fortemente la fiscalità, è del tutto lecito pensare che otterranno l'effetto opposto. Ma secondo lei a Bruxelles una roba di questo genere passa o lo prendono come nuovo debito? Io penso che ci siano tutte le condizioni per non considerare un nuovo debito dal loro punto di vista, dal punto di vista dell'Unione Europea, perché per l'Unione Europea la cosa importante è che ci sia un corretto servizio delle passività esistenti in euro. Il fatto che poi uno Stato introduca degli strumenti per agevolare e spingere la propria economia, lasciando impregiudicati, anzi migliorando le condizioni di ripagamento delle obbligazioni esistenti in euro, non può che essere un beneficio. Sono assolutamente convinto che si tratta di qualcosa che è positiva per l'intero sistema. Io la adotterei in effetti non solo in Italia, ma in tutti gli altri paesi dell'area euro, in tutti i paesi d'Europa meridionale sostanzialmente, che oggi hanno le difficoltà a tutti noti. Grazie a Marco Cattaneo, presidente di CPI Private Equity, per essere stato con noi e per quest'idea. Insomma, si può dire bene o male, insomma, e si dirà bene o male di quest'idea, ma sicuramente è qualcosa di innovativo. Grazie Cattaneo, buonasera. Dunque, commenti di vario genere, tra cui dite ma non equivale a stampare moneta, forse il più grosso dubbio è proprio quello, direi. Uno dei maggiori dubbi. Però, insomma, una posizione che abbiamo deciso di ospitare. Intanto però, dato che sembra difficile che la cosa possa prendere corpo per questa legge di stabilità, ammesso che prenda corpo, bisogna trovarli i soldi per questo taglio del cuneo fiscale. Dino Pesole del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, spariscono, l'abbiamo raccontato poco fa con le ultime modifiche, il taglio delle prime 2 aliquote IRPEF e la stretta retroattiva sui bonus fiscali. L'IVA aumenterà, ma solo per quanto riguarda quella del 21%, resta invariata quella del 10%. Ci dite il riso in realtà era al 4%, non al 10%, chiediamo scusa, insomma ci è entrato un prodotto che non aveva nulla a che fare. Il punto però è questa riduzione del cuneo fiscale che si sta progettando anche su pressione parlamentare, dello 0,5% nel 2013 e dell'1% nel 2014. Quanti soldi ci vogliono, Dino, per questa legge di stabilità nuova versione? Beh, dai conti che abbiamo fatto noi in questi giorni occorre almeno reperire altri 2 miliardi per rendere ovviamente questo intervento credibile e in qualche modo efficace, perché altrimenti si rischia di fare l'errore che sarà fatto con la modifica dell'IRPEF, che sarebbe stata del tutto irrilevante dal punto di vista del rilancio dei consumi, trattandosi veramente di una manciata di spiccioli. Stiamo parlando di 12-15 euro al mese. Quindi il problema è individuare risorse che rendano in qualche modo percepibile uno sconto a valere sul costo del lavoro che, a mio avviso almeno, in questa fase è decisamente da preferire rispetto a un intervento indifferenziato sulle aliquote IRPEF. Certo, Dino, se non erro dai calcoli che avete fatto al momento, quello che potrebbe avanzare per questo intervento è una cifra compresa tra i 7 e gli 800 milioni di euro. Ci si perdoni se li trattiamo così, ma sono spiccioli, insomma, per un intervento di questo genere. Si tratta comunque di cifre modeste, questo va chiarito. Non stiamo parlando di cifre talmente importanti da poter invertire un trend negativo della nostra economia. Si tratta di cifre che possono lanciare un segnale in direzione di una piccola, modesta ma significativa riduzione del prelievo fiscale. Il problema però è che dall'intesa politica alla realizzazione pratica delle misure ce ne corre. Finora c'è stata solo l'intesa politica. L'intesa politica è quella di aver deciso di rinunciare al taglio delle due aliquote minori dell'IRPEF e al tempo stesso di limitare l'aumento dell'IVA soltanto all'aliquota ordinaria del 21%, il che va benissimo, ma se le cose restano così l'operazione è a saldo zero, e invece si vuole dare un segnale giustamente sul fronte del lavoro. Ecco perché servono altre risorse, e questo è il compito dei tecnici delle cose in queste ore. Non sarà facilissimo, ma credo che alla fine si troverà una soluzione. Tra l'altro c'è, tra le ipotesi di uno dei relatori alla legge di stabilità, che è Renato Brunetta del PDL, dice insomma che si sta ragionando su alcune ipotesi. Una di queste è di trasferire questa cifra, che tra l'altro va ancora trovata, alla riduzione del cuneo fiscale o per tutto il lavoro dipendente, dicevo, finalizzandolo all'intervento alla produttività, cioè l'ipotesi sarebbe di raddoppiare quel fondo già previsto di 1,5 miliardi, che in attesa dell'accordo, ne abbiamo parlato poco fa con Alberto Rioli, in attesa dell'accordo tra parti sociali, insomma tra parti datoriali e organizzazioni dei lavoratori. Sì, questo è un altro aspetto ancora, è una decisione che va presa a livello politico, cioè se si rinuncia a intervenire direttamente sull'IRPEF a valere sul cuneo fiscale, quindi parte fisco, parte contributi, con beneficio per i lavoratori dipendenti e per le imprese, e si decide di destinare questo gruzzoletto minimo, a questo punto stiamo parlando di 1,5 miliardi, per raddoppiare la dotazione che il governo è disposto a mettere in campo sul fronte della produttività, è un'altra scelta. Quindi bisogna capire in che direzione si va. Finora mi è sembrato di capire che il governo e la maggioranza che lo sostiene abbiano deciso di imboccare la strada di un segnale sul fronte della riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, e viceversa stabilire che si destinano risorse per sostenere la produttività è anch'essa una scelta importante di politica economica che va in direzione della maggiore spinta alla crescita, ma è un'altra cosa. Quindi insomma bisogna aspettare e capire in quale direzione si va, immagino nei prossimi giorni ne sapremo di più. Naturalmente, ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666, dice: con la riduzione dell'IRPEF noi pensionati avremmo avuto un incremento, invece così le pensioni restano bloccate. Effettivamente è così, se non sbaglio, insomma, se va sul cuneo fiscale evidentemente non ci saranno benefici per i pensionati, no Dino? Ovvio. Esattamente, il problema però è che anche nella precedente versione i benefici non ci sarebbero stati, perché a fronte della riduzione di due punti, anzi di un punto per uno delle aliquote minori del 23-27%, era previsto il taglio retroattivo delle detrazioni e delle agevolazioni fiscali già a valere quest'anno. Ha fatti due conti e immaginato che comunque questi signori, in ogni caso come ognuno di noi, vanno al supermercato e quindi pagano IVA su quello che acquistano, il saldo finale non sarebbe stato propriamente positivo. Il governo è accorto, il Parlamento anche, e hanno, secondo me molto opportunamente, optato per un'altra strada. Il problema è che la strada è ancora chiarissima. Chiarissimo, grazie a Dino Pedole del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Noi chiudiamo però facendovi ascoltare anche una posizione del governo su questo, che è quella del ministro Corrado Passera, che a quanto pare queste modifiche al decreto le ha prese bene. Aver deciso di concentrare sul cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti parte delle risorse che prima pensavamo di destinare a un taglio dell'IRPEF, secondo me va nella giusta direzione, e come spesso succede proposte del governo attraverso il dibattito parlamentare possono anche migliorare. E siamo veramente in chiusura, ci chiedete se sulle detrazioni rimane il tetto, si sta lavorando anche su quello, pare. Grazie a Pietro Lacorte in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Buonasera.